Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ferry Boat, saluti da Insergante, il traghettatore, e mai come questa puntata saremo in movimento, perché parliamo di mobilità sostenibile. Non preoccupatevi, non è una mobilità verde, non è una mobilità, o perlomeno non è soltanto la mobilità che non inquina. La mobilità sostenibile è uno dei punti, dei gangli vitali del nuovo sistema economico, della nuova economia sociale. Si parla di minore consumo di energia, meno inquinamento atmosferico, acustico, minori emissioni di gas serra, ma anche diminuzione della congestione stradale, della maggiore sicurezza, perché no, diminuire i tempi di trasferimento da un luogo all'altro, che è un problema che abbiamo in molti, soprattutto nelle grandi città. Questo è il menù della mobilità sostenibile, che può voler dire veramente anche mondi nuovi. Le Olimpiadi di Pechino, l'Expo di Shanghai, la bolgia di Nuova Delhi. Il caos urbano ha i suoi profeti e sono italiani. Lo saranno anche in patria? Si chiama Chimi Chip e rievoca gli 007, ma gli spiati sono solo innocui ciclisti milanesi e serve a farli uscire dalla clandestinità assicurativa. Quindi già da sommario avete sentito dalle grandi problematiche cinesi, che sono veramente le più grandi in assoluto, alla bicicletta di tutti i giorni, ai ciclisti milanesi, al microchip che sentirete servirà da farli uscire, come abbiamo detto, dalla clandestinità e diventare soggetti attivi anche per le assicurazioni. I profeti di cui parlavamo, quelli che hanno messo le mani nella mobilità sostenibile di Pechino, di Shanghai, di Nuova Delhi, scusate se è poco, ve li presentiamo con questa singolarissima scheda. Tetis si è aggiudicata l'appalto per lo studio ambientale integrato che valuterà gli effetti del trasferimento di acqua dal Mar Rosso al Mar Morto. Credo che il valore più grosso sia di essere stati selezionati dalla Banca Mondiale. Essere stati scelti per uno studio così critico, così strategico, così politicamente importante è sicuramente di grande soddisfazione. È uno studio specialistico che approfondisce gli aspetti relativi ai possibili impatti sugli ecosistemi del Mar Rosso, di questo trasferimento possibile di acqua dal Mar Rosso al Mar Morto, attraverso questa condotta che potrebbe essere realizzata per connettere il Mar Rosso con il Mar Morto, condotta che dovrebbe attraversare il territorio giordano e correndo lungo il confine tra Giordania ed Israele. Beh, insomma, come presentazione di un'azienda italiana non c'è male. Ingegner Marino Mazzon, International Development Manager. Salve, ingegnere. Buonasera a lei. Ecco, e non c'è male nel senso che comunque noi siamo sempre lì a criticare l'Italia e le performance degli italiani e delle aziende italiane, ma qui siamo di fronte ad un'azienda veneziana di eccellenza che è al punto, talmente tanto d'eccellenza al punto da muovere letteralmente le acque, insomma quasi una citazione biblica. La Tetis, ingegner Mazzon, è un'azienda assolutamente all'avanguardia tecnologicamente, al punto da aver studiato e applicato piani di mobilità sostenibili per le Olimpiadi di Pechino, adesso su Shanghai, ma anche su Nuova Delhi. Insomma, voi avete cominciato a studiare al massimo livello la mobilità sostenibile quando ancora in Italia non era neanche un tema all'ordine del giorno, ma neanche nelle sale universitarie. Beh, sai come si dice? Nemo profeta in patria, no? Per dirla con una battuta. A noi, diciamo, è andata bene perché abbiamo cominciato qualche anno fa, nel 2002 esattamente, ad affrontare questi temi. E dico c'è andata bene perché ci è capitato, come succede a volte alle aziende giovani, diciamo, no? Di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. E questo è successo a Pechino. Quanti abitanti fa Pechino? Pechino sono la città, sono 15 milioni, però diciamo l'area della municipalità sono 30 milioni, quindi è come dire metà dell'Italia. E voi avete studiato un piano di mobilità sostenibile per una città di un'area urbana di 30 milioni di abitanti. Che cosa vuol dire un piano di mobilità per un'area così vasta? Diciamo vuol dire un'operazione molto complessa, per la quale dobbiamo anche dire che non siamo stati soli, nel senso che qua a Pechino ci sono delle istituzioni importanti che dipendono dalla municipalità e che hanno proprio il mandato di studiare, diciamo, i piani per alleviare il grande problema di traffico che a Pechino c'è da tempo ormai, tant'è che già nel 2002 la municipalità aveva, come dire, prefigurato quello che sarebbe successo adesso. Voi avete fatto anche il piano di mobilità di Shanghai, che adesso invece è protagonista con il suo Expo. Qual è la parte del percorso che Tethys ha colmato in questi progetti? Adesso è successo questo. A Shanghai siamo stati coinvolti insieme all'Università Tongji, che faccia conto è un'università tecnica di grosso prestigio paragonabile alle migliori americane. Abbiamo studiato assieme a loro le strategie di trasporto pubblico per portare gli spettatori all'Expo. L'Expo totalizzava una previsione di 70 milioni di spettatori durante i mesi dell'Expo e quindi assieme a loro abbiamo prefigurato quale era il modo più, diciamo, efficace di trasportare questa massa micidiale di gente, che in parte è trasportata dalla metropolitana, utilizzando gli autobus, perché c'è una fase d'afflusso importante che viene proprio dalla zona di Shanghai, oltre alla quantità di spettatori che vengono dall'estero e da lontano. Si può dire che Tethys è una società leader a livello internazionale nella mobilità sostenibile, quindi in 10 secondi lei ci può dire che cosa è esattamente la mobilità sostenibile e come va interpretata anche nelle nostre molto più modeste realtà urbane. La mobilità sostenibile, per dirla in termini semplici, è quella cosa, no, che consente alle persone e ai beni strumentali di muoversi attraverso la città in una maniera fluida e senza congestionare la città, in modo tale che, come succede, possa essere sostenibile nel tempo e sostenibile sul piano dell'inquinamento e del consumo di energia. È banalissimo, ecco. Sì, ma sono questi concetti nuovi, sono semplici e banali, che probabilmente su cui bisogna lavorare in chiave di educazione e di cultura. Ingegnere, lei è, l'ultima battuta, lei è proprio a Pechino in questo momento. Come si muove quando si sposta? Cosa fa? Prende un taxi o ci sono ancora i rickshaw? Allora, come mi muovo a Pechino? Io ho la bici in casa e sono uno dei tanti che, quando possono, preferiscono la bici. Bisogna dire che negli ultimi anni è il motore qua a Pechino, sono state proprio le Olimpiadi. Pechino ha fatto un salto di qualità nel traffico e nella mobilità veramente impressionante. Lei faccia conto, quando sono arrivato qua nel 2002 le bici non c'erano più per strada, nel senso che per far vedere al mondo che la Cina era all'avanguardia le bici le hanno tolte. Adesso invece le hanno reintrodotte, la città è piena di piste ciclabili, c'è una metropolitana enorme che è stata fatta in tempo per le Olimpiadi, in 2 anni hanno fatto 7-8 linee nuove di metropolitana, una cosa da brividi, le assicuro, poi ci sono gli autobus e poi c'è naturalmente la sua bicicletta. Grazie ingegnere. Grazie ancora. Torniamo in Italia con Gabriele Grea, che ha ascoltato. Gabriele, salve. Buonasera. Gabriele Grea è del CERTET, Università Bocconi. Adesso gli chiediamo velocemente di spiegare, di presentarle in 2 battute. Certo, è sempre impressionante. Una volta era impressionante sentir parlare degli Stati Uniti, adesso all'ordine del giorno c'è la Cina con i suoi numeri fantastici, ma anche con una certa, capacità previsionale, perché adesso il mondo ciclistico e metropolitano cinese è certamente una lezione di vita importante anche per le nostre città. Sicuramente si parla di numeri leggermente diversi, sicuramente quando si riesce a fare massa critica, e queste realtà lo dimostrano, anche politiche innovative come quelle che riguardano la mobilità sostenibile possono avere un effetto tangibile, quindi un effetto che su vasta scala produce dei risultati importanti. Il CERTET ha una serie di attività, a noi ci interessa quella specificatamente, diretta all'osservatorio di cui vi ho occupato, un osservatorio che proprio riguarda la mobilità sostenibile. Come funziona e che cos'è l'osservatorio? Sostanzialmente l'osservatorio è un'emanazione di un network denominato Network Mobilità Sostenibile, che coinvolge una serie di imprese leader nei loro settori, che vanno dall'automotive all'energia, ai servizi di trasporto collettivo e così via, alla gestione di infrastrutture, sono accomunate dall'attenzione al tema della mobilità sostenibile. E l'osservatorio che abbiamo sviluppato in forte sinergia con queste aziende si propone di sviluppare e promuovere attività di ricerca, di sperimentazione e di monitoraggio di iniziative di mobilità sostenibile al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza del fenomeno e di interpretare quelli che sono i trend evolutivi del settore. Ecco, a proposito di trend, Gabriele, in Italia che cosa sta succedendo? È una delle parole che più si pronunciano ormai in questi ultimi mesi, proprio il caso di dirlo, visto la dinamica con cui si sviluppa il dibattito sulla sostenibilità, ma al di là di tutte queste parole ci sono dei fatti, voi avete registrate dei fatti concreti delle amministrazioni o delle imprese su questi temi? Certo, assolutamente, l'importanza, come dice lei, è assolutamente centrale e il dibattito lo dimostra. Le iniziative ci sono, individuiamo un certo grado di polverizzazione di queste iniziative sicuramente interessanti che coinvolgono alcuni di quelli che noi chiamiamo gli strumenti a servizio della mobilità sostenibile, che sono di diverse tipologie, insomma hanno un carattere prettamente tecnologico e si possono rivolgere sia all'ambito informativo sia all'ambito delle propulsioni sempre più efficienti e sempre più pulite, hanno un carattere organizzativo e operativo, citiamo ad esempio le iniziative di City Logistics in alcune città italiane, i servizi di bike sharing o i servizi di mobilità avanzata che vengono sviluppati in alcuni contesti, possono essere di carattere e devono essere di carattere infrastrutturale, normativo e contribuiscono in generale ad un concetto più ampio che è quello dello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile con un determinato grado di integrazione che possono effettivamente avere dei risultati sul territorio. La mancanza di un coordinamento e di una visione strategica nell'utilizzo di tutti questi strumenti può implicare proprio la mancanza di quella massa critica che citavamo all'inizio e quindi può limitare in maniera sostanziale, addirittura mettere in discussione quelli che sono gli obiettivi e i traguardi della sostenibilità e della mobilità sostenibile. Grazie Gabriele Grea. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci di nuovo in studio, a bordo avete sentito con Insergante il traghettatore l'ingegnere Mazzon che era a Pechino a proposito di traffico, dove avete sentito che grande ribaltone c'è stato negli ultimi anni dalla città delle automobili per mostrare al mondo i muscoli di Pechino alla città delle biciclette e delle metropolitane, così come poi Gabriele Grea della Bocconi, dell'osservatorio Certet della Bocconi, ci ha dato una lettura orizzontale della problematica della mobilità sostenibile. Avete sentito le informazioni sul traffico, che certo di sostenibilità hanno ben poco, e speriamo che grazie anche a Fabio Casiroli di Sistematica, buongiorno, che fa grazie anche a te e alle tue teorie sulla micromobilità, speriamo che le informazioni sul traffico diventino sempre meno una rubrica importante per Radio 24 fino a scomparire. Un giorno non ci sarà più il traffico ma solo mobilità. Adesso evidentemente stiamo esagerando, però certo che il tuo passaggio dallo spazio, dalla quantità pechinese piuttosto che dell'osservatorio alla visione temporale del problema della mobilità è interessante, per questo abbiamo chiesto di spiegarci che cos'è la tua teoria sulla micromobilità. Bene, grazie intanto, speriamo veramente che ci possano essere dei contributi seri per far sì che la mobilità diventi qualcosa di piacevole e non, come oggi accade invece, spesso un incubo. Io credo che tutti i cittadini di tutto il mondo ambiscano a raggiungere le proprie destinazioni nel minor tempo possibile, quasi indipendentemente dalla distanza che li separa dalla loro destinazione. Faccio un esempio molto banale: se dovessi andare alla mia università distante 6 chilometri e io sapessi di impiegarci un'ora in mezzo al traffico, sarei preoccupatissimo, ma se a questa facoltà, non più distante 6 chilometri ma distante 12 chilometri, io sapessi di poter accedere con un sistema di metropolitana rapido in mezz'ora, beh, sarei molto più felice. Ecco, tu fai vedere spesso le tue presentazioni, che io ammiro molto per la chiarezza e anche per la spettacolarità, una cartina di Milano in particolare che si allarga e si restringe a secondo dei criteri che tu consideri, che proponi. Sì. riesci a spiegarla, siamo alla radio, purtroppo non si può vedere, ma forse tu sei molto bravo a spiegare che cosa è questa Milano elastica. Ci provo. Abbiamo fatto una ricerca molto consistente con la London School of Economics su 12 grandi megalopoli mondiali, Milano rientra fra queste. Ipotizziamo che il luogo del lavoro, la città del lavoro, che è rappresentata oggi dalle attività terziarie e quaternarie che sono collocate soprattutto nel centro di Milano, debba essere raggiunta in un mattino di un giorno feriale da ciascuno di noi che può avere la scelta di utilizzare il proprio veicolo privato, normalmente l'autovettura, oppure un mezzo di trasporto collettivo. 45 minuti è il tempo che ciascuno di noi, e questo non lo invento io ma le indagini sociologiche lo dicono, è disposto a spendere negli spostamenti urbani. Ebbene, facendo ipotetico centro sul centro di Milano e disegnando una mappa dei 45 minuti con l'autovettura, si scopre che lo spazio percorso in questo tempo, che è la variabile fondamentale, è abbastanza compatto, si arriva sostanzialmente alle tangenziali di Milano. Se noi questo stesso tempo lo utilizziamo invece con i mezzi pubblici, scopriamo che soprattutto sulle radiali servite dal sistema ferroviario i 45 minuti si dilatano nello spazio, si arriva sostanzialmente molto più lontani. Sei stato chiarissimo come al solito e lasciamo, grazie Fabio Casiroli, ti lasciamo ringraziandoti, ciao. Senza. E lasciamo questa sensazione ai nostri ascoltatori di quello che può voler dire l'elasticità. Il tempo è una variabile che non abbiamo considerato, che ancor meno va considerata quando si va in bici, per esempio, però lì ci sono altri valori. Questo è CimiChip, un microchip che viene inserito all'interno del telaio della bicicletta e che ha l'utilità di controllare lo stato della bicicletta stessa attraverso un sistema di manutenzione programmate che il negoziante può semplicemente, insieme all'acquirente finale, stabilire in tempistiche e modalità. Al momento del termine del periodo oltre il quale il cliente finale deve effettuare la manutenzione, lo stesso riceverà dal software in maniera automatica un SMS o una email dove verrà avvisato del fatto che deve portare la bicicletta al controllo. Al momento in cui il cliente finale porterà la bicicletta al controllo dal proprio negoziante, segnalerà tutti i difetti che saranno comunque da correggere o quelle parti che vorrebbe venissero sistemate. Il negoziante scriverà a video tutte queste correzioni e si adopererà per la manutenzione stessa. Terminata la manutenzione, il negoziante inserirà tutte le correzioni effettuate, tutte le sistemazioni effettuate e al momento della chiusura come manutenzione effettuata della videata corrispondente alla bicicletta, il software automaticamente manderà al cliente finale un SMS e un'email dove lo avvertirà che la bicicletta è pronta. Assessore provinciale alla viabilità di Milano, Giovanni De Nicola, buonasera assessore. Buonasera a lei e ai nostri telespettatori, radioascoltatori. Radioascoltatori, per una volta radio e non telespettatori. Assessore, grazie anche a nome dei miei colleghi ciclisti che si vedono finalmente considerati al pari di un motociclista, di un automobilista. D'altronde i ciclisti poi fanno molto meno danni in giro, no? Spesso sono vittime, anzi quasi sempre. E questo è uno dei suoi atti, diciamo, dei primi, perché lei è assessore da poco tempo. Il tema della viabilità e della mobilità sostenibile immagino che per lei sia diventato da subito un'ossessione, viste le difficoltà della provincia di Milano. È un premio che mi è stato dato perché finalmente ho la possibilità di aiutarmi e aiutare i tanti che sono per la mobilità cosiddetta dolce, sostenibile. RFID, il microchip di cui hanno parlato poc'anzi, noi lo abbiamo fatto cosa nostra, se mi passa il termine, e in base a questo noi abbiamo creato il registro pubblico della bicicletta, quindi noi proponiamo l'installazione in tutte le biciclette della provincia di Milano e abbiamo ottenuto da una primaria assicurazione nazionale una polizza che tutela il proprietario della bicicletta dal furto, cosa importante perché a Milano ce ne rubano. Figuri, non dico quante ne hanno rubate a me di bici. Non le dico, e in più non solo la responsabilità civile, ma la cosa più bella è che lei sa che se va alla radio in automobile o in motocicletta e subisce un incidente o cade, viene considerato infortunio sul lavoro, se ci va in bicicletta sono fatti del ciclista se subisce o cade o ha un incidente. Perfetto. Noi con questa polizza copriamo anche il trasferimento casa-lavoro e il costo sarà inferiore, lo dico, il costo anno è inferiore ai 25 euro, quindi insomma la portata di... No, sono cose importanti, possono sembrare piccoli aspetti, ma in realtà è anche attraverso queste iniziative che la gente si convince che deve abituarsi ad un nuovo stile di vita dove l'automobile sempre sarà sempre importante e centrale, ma non è l'unica possibilità di movimento. Quali sono le altre iniziative su questo campo che sono sicuro bollono nella pentola, assessore? Ma noi stiamo propiziando l'apertura e la realizzazione di piste ciclabili meno costose, perché non si può pensare di fare delle piste costosissime e poi gli enti locali non hanno i soldi per mantenerle, perché le realizziamo ma poi nessuno provvede a spazzarle e a fare la ordinaria manutenzione. Quindi proprio il 5 e il 6 inauguriamo due piste ciclabili. Questo per quanto riguarda sul versante della mobilità ciclabile. Poi stiamo progettando e siamo in fase, la prima vera opera per Expo, finanziata da noi, che è la pista verso gli spazi espositivi di Expo, che il cui progetto preliminare sarà approvato nei prossimi giorni. Ma io ho avuto l'opportunità di partecipare anche a quel grande convegno, grande manifestazione che c'è a Monza, che è Aria Nuova, e io annunzio in questa emittente per la prima volta che entro novembre noi realizzeremo una esposizione delle barche azionate ad energia alternativa, e quindi interveniamo sempre in questo all'idroscala, immagino all'idroscala naturalmente, quindi ci sarà questo primo salone nazionale delle imbarcazioni azionate ad energia alternativa. Assessore, e poi tutto, mi dica. No, la stavo interrompendo perché purtroppo lei l'elenco sarà lunghissimo, i tempi sono strettissimi, ma sicuramente avremo occasione di parlarne. Complimenti, le rinnovo da parte di tutti i ciclisti l'ammirazione per il suo lavoro. Grazie assessore. Grazie a lei. A risentirci. Noi abbiamo finito, però vi preannunciamo che per la prima volta nella pur breve ma intensa storia di Ferribot e del suo traghettatore insergante, la prossima puntata la dedichiamo ancora alla mobilità, perché non abbiamo finito di affrontare l'argomento. Intanto grazie ad Anita Panizza in redazione e a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che su radio24.it potete riascoltare il programma. A presto.